Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un giovane cantautore emergente. È nato nel New Jersey nel 1985 e cresciuto a Milano. Affascinato dal mondo dell'arte di strada sin da bambino, nell'estate del 2010, dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche, decide di licenziarsi dalla casa di produzioni cinematografiche per cui lavorava e cominciare la vita del musicista di strada. Parte così alla scoperta dell'Europa, lasciando Milano per un lungo viaggio on the road in autostop. Tornato a casa, a partire dalla primavera del 2011, comincia a suonare per le strade di Milano. Si fa così conoscere da un numero sempre maggiore di persone. Le foto e i video delle sue performance rimbalzano sulle bacheche di Facebook e di Twitter e in molti, da varie parti d'Italia, gli scrivono per invitarlo ad andare a suonare nelle strade della loro città. La conclusione di questo lungo viaggio è la pubblicazione del suo primo album di inediti dal titolo Le chiavi di casa mia. Per riuscire a finanziarne la produzione, lancia una campagna di raccolta fondi online. In soli 60 giorni raccoglie oltre 10.000 euro. Nell'estate del 2014 inizia un lungo road tour per le strade d'Europa in cui attraversa Francia, Belgio, Inghilterra, Scozia, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Polonia. Al termine di questo viaggio registra il suo secondo album Sky. E poi parte di nuovo. Il suo nome è Matteo Terzi, ma ha scelto come nome d'arte Soltanto. Sì, mio nome d'arte è Soltanto, è nato dopo il mio primo viaggio che ho fatto per strada, per andare a suonare per strada. Ero partito con l'idea, l'ambizione di cercare di essere un super viaggiatore, un super vagabondo, insomma. Se non che dopo, questi 6 mesi che feci il giro per l'Europa in autostop, capì quanto mi mancasse casa, eccetera. Quindi ho detto, l'ambizione forse già cercare di essere soltanto me stesso, basta, per cui sono diventato Soltanto. Però già la decisione di prendere e di partire senza una meta, senza una destinazione fissa, non è scontata, anche se forse la tua generazione ha un po' meno convenzioni e strade predefinite da seguire, non è scontata. No, sicuramente, nel senso, comunque è stata una... Io sono sempre stato così affascinato dalla letteratura di viaggio, da Kerouac, eccetera, poi mi colpì molto il racconto, dell'avventura di Christopher McCandless, Into the Wild, eccetera. Però ecco, insomma, sì, arrivare a questo tipo di scelta fu una cosa, lasciare tutto e cominciare a viaggiare appunto in autostop senza meta, come compagna di viaggio soltanto una chitarra, è stata difficile da spiegare a me stesso, ai miei genitori, agli amici, per fortuna poi grazie a quel viaggio capì veramente quello che ero, cosa mi faceva essere felice, appunto suonare per strada, e quindi tornai a casa con un arricchimento che potevo poi spiegare a tutti, e quindi poi da lì è cominciata la mia vita di musicista di strada. Anche perché tu lavoravi? Io lavoravo, sì, studiavo, facevo scienze politiche in statale a Milano, ma al contempo lavoravo anche per una società di produzioni di cinematografiche, teatrali, indipendente qui a Milano, e quindi sì, lavoravo, ma avevo comunque già ben chiaro che era, non ero ancora sui miei binari, sui binari della mia vita, navigavo un po' a vista, insomma. Se guardo oggi indietro a 6 anni come ero, avevo bisogno di confrontarmi davvero con quello che stavo cercando e con chi ero, ecco. Ma poi ti siedi in riva. Correre. 6 anni, tante esperienze, due dischi, perché Sky è il secondo. Sì, sì, sì, ho scritto un primo disco che ho realizzato grazie alla... al crowdfunding, quindi alla raccolta fondi in rete, proprio con l'idea di mantenere il più possibile una coerenza anche con quello che sono, nel senso che comunque io sono vivo di musica grazie alle offerte che ricevo dalle persone nella custodia. Allo stesso tempo mi piaceva l'idea che il mio disco potesse vivere grazie alle offerte che riceveva, anzi, la custodia spostandola dalla strada al web, però insomma il principio restava quello. E poi invece appunto in questi ultimi 3 anni di viaggi per strada sono tornato a suonare per le strade d'Europa, sono nate nuove canzoni e appunto ho avuto la fortuna, insomma comunque la possibilità di prendermi tutto il tempo che volevo per scriverlo, per arrangiarlo, per sognarlo questo nuovo disco. E quando appunto sono arrivato sull'isola di Skye, che è una piccola isola della Scozia, al termine di questi 2 anni e mezzo, diciamo, ho capito che il disco era pronto, mi sono, come dire, sentito pronto a provare appunto ad entrare in studio, registrarlo, e così è nato Skye. La dimensione del registrare un disco, promuoverlo, fare concerti, come si concilia con quella del suonatore di strada? Ma, come dire, io sono musicista di strada, quindi questa è la mia natura musicale e artistica. Poi è chiaro che sono il primo che, nonostante io non sono a mio agio su un palco, cioè nel senso che mi è capitato poche volte di fare concerti, diciamo, al chiuso, però, come dire, avendoci speso 3 anni della mia vita a cercare i colori giusti da dare a queste canzoni, i vestiti, gli arrangiamenti, fondamentalmente, chiaramente volevo presentare queste canzoni così, quindi con tutta la band e anche con un tipo di ascolto che comunque il teatro ti dà, diversamente dalla strada, comunque ti dà un'atmosfera, come dire, un po' magica, proprio mi piaceva l'idea, ecco, di presentarla in quel contesto. Però, come dire, sono attività che prima ancora di farle so già che sono sporadiche, so già che sono, come dire, fanno parte di un progetto così parallelo, però, come dire, già tra un paio di settimane sono di nuovo in strada a suonare, quindi insomma... Questo è come poi io vivo personalmente la musica, è proprio questo, perché comunque niente, almeno il motivo per cui faccio musica è soprattutto quello di, come dire, incontrare un passante che fino al secondo prima magari era un perfetto sconosciuto, invece grazie a quel momento, grazie a quella canzone, si ferma e ti fa capire che aveva bisogno di quello che stai facendo per emozionarsi, per magari uscire dalla routine, insomma questi momenti sono quello che io cerco dalla musica. Mi chiamano il musicista di Via Mercanti, di quando in qua mi salutano i passanti, ma non ho trovato il tempo per dirti che questo è tutto grazie a te. Tante storie, alcune tue molto intime, alcune invece non so se ispirate da qualche storia che hai incontrato o se immaginate, perché immagino di storie tu ne incontri molto, sì, più di tutti noi nella tua vita quotidiana. Ma a proposito di questo, c'è una canzone in particolare a cui sono molto legato, che è legata proprio a un incontro che feci con un clochard, diciamo, un senza tetto a Bruxelles, un uomo, diciamo, che io vedevo praticamente sempre ubriaco, sempre, e quindi mi domandavo come mai lui, come dire, riuscisse comunque, nonostante quella condizione, a essere tutti i giorni lì, perché se io mi immagino di essere sempre ubriaco tutti i giorni, oggi sono qua, domani, cioè, mi sveglierò chissà dove, invece lui aveva in qualche modo una sua quotidianità, no? E capito che una mattina ci incontrammo mentre io tenevo la postazione che dovevo andare a prenotare, diciamo, la mattina presto, lo incontrai, parlammo un attimo e capì che, come dire, lui mi disse che la sua vita comunque era finita nel momento in cui era mancata il suo amore, la sua compagna, e che quindi appunto l'alcol era in qualche modo anestetizzava quel dolore, però riusciva a restare incollato alla realtà, perché lui tutti i giorni la mattina, quando prima di cominciare la giornata, chiudeva gli occhi e si immaginava di volare in cielo dal suo amore e guardare, come dire, tutto il mondo, tutta la vita dall'assù, e questo gli dava la forza di restare connesso in qualche modo alla realtà, e quindi da lì nacque appunto questa canzone che si chiama Se chiudi gli occhi si vola, a cui sono molto legato. Hai parlato di Senza fissa dimora e in una delle tue canzoni racconti di quando a Milano, il musicista di Via Mercanti, di quando a Milano qualcuno ha preso te come uno che fosse finito per strada? Sì, cioè nel senso che comunque quando ho cominciato a suonare a Milano è stata come dire molto un'esperienza molto forte, nel senso che avevo molto timore a farlo, perché comunque in Europa andavo in giro in una città dove comunque non mi conosceva nessuno, quindi c'era anche quell'aspetto che mi faceva avere meno paura. Invece qui a Milano, come dire, mi esponevo suonando in strada anche con persone che magari, vecchi professori che passavano, sono passati, mi dicevano ah bravo, però che lavoro fai? E cose di questo genere. Quindi sì, inizialmente andò proprio così, che dovetti superare anche, come dire, quell'aspetto che spesso e volentieri magari viene, quindi, associato a chi si esibisce in strada. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Insieme a noi c'era Soltanto. Ancora un saluto da Marta Cagnola.